c'è qualcuno? Buonasera. Avanti Carlo. Ciao, buonasera, chi sei? Scusa che avevo un'altra radio accesa, quindi non ho afferrato il tono di voce. Gianni De Profet da questa parte. Ciao Gianni, buonasera, come va? Ascolta, un controllino, siccome ho cambiato l'alimentatore, adesso ti faccio un passaggio in bianco e mi dici se ci ho alternata sotto, ok? Ok, vai pure. Ma secondo me questo era come quello di prima, non si sente nessuna alternata. Ok, vuol dire che l'alimentatore filtra bene, dai. Perché sai, appena il residuo ci potrebbe essere, però sembra che tutto funziona al meglio. È meglio così. Alimentatore nuovo, Gianni? No, vabbè, l'ho preso su eBay, usato, della Alfa Elettronica, da 13,8 e 3,5 A. Ah, ho capo, sì. E beh, allora già sta funzionando bene, capito. Eia, ascolta, il mio smitter mi segna picchi positivi, a te ti risulta? Prova a fare un altro passaggio. Check radio 1, 2, 3, check radio 1, 2, 3. Eh sì, come parli va la lancetta un pochettino in su, capito? Ok, bene meglio, dai. Adesso, me ne sono accorto adesso, vedo che lo smitter è allegro, dai. Il microfono è bello squillante, voce nitida e perfetta. Sì, lo ZG, anche se è brutto esteticamente a vedersi, ma dai, grigio toppo col pulsante giallo. Oh, yeah. Questo è stato un regalo di Massimiliano, che tra l'altro da parecchio non si fa sentire, il mitico bulldozer. Lo so, l'importante è che funzioni bene, e poi l'estetica, capito, ognuno la immagina come, sì, ho capito qual è il microfono ZG, dai, l'importante è uscire bene, poi l'estetica è... superficiale, dai, ci sono quelli che ci tengono, ma io non sono uno di quelli. Break 10. Avanti Brecco. Buonasera, stazione Alfa Bravo, mi potete dire come mi ascoltate che sto piazzando un'antenna? K. Allora, vado io. Ciao Alfa Bravo. La radio è un po' bassina, però il segnale qua è 9,5. Oh, perfetto. L'altro amico è stato un po' più basso, mi è sembrato Carlo, ricordo male. Sei tu? Avanti Carlo, però fa bravo. Lo sento molto basso, incomprensibile qua da me, capito? Io, va bene che io sono con l'antennino piccolo e sicuramente è quello, capito? Salutamelo e fammi da ponte e speriamo di risentirci in condizioni migliori. No, io lo sento benissimo, la colpa è mia. Siccome c'avevo fretta di provare cosa combinato con l'antenna, l'antenna è coricata a terra, semplicemente. Non c'è un'antenna che è attaccata al palo, però il palo è per terra e quindi anche l'antenna è a contatto quasi col terreno. Infatti mi sembra strano che mi sentite, anche se basso, comunque. Va bene così, la potenza d'uscita è circa 6 watt, quindi funziona lo stesso. Sì, io ti copio, te l'ho detto, 9,5 il segnale, la radio un po' bassina. Carlo proprio non ti copia, vabbè, l'hai sentito tu in diretta. E niente, insomma. Questo per quanto riguarda le mie coordinate. Avanti Carlo, a far bravo ti sente perfettamente, però tu non riesci a copiare, vabbè. L'ultimo passaggio che ha fatto ho sentito qualcosina, capito, perché si era abbassato un po' il QRM, capito, e quindi buonasera Gianfranco, già 02D, capito, perché io sono stato già quasi un annetto fermo, capito, ripreso da poco, e quindi ho una stazione d'emergenza per adesso, in attesa di mettere la radio sul tetto, a te il microfono. Sì, allora tu sei S7, S7, l'altro atomico è oltre il 9,10, 9,20 quasi, quindi penso che sei vicino a me, io sono fuori Sassari, sono a Prato Comunale praticamente. Sì, già, ho capito. Sì, no, io ho coordinato la stazione ferroviaria, quindi siamo relativamente vicini, dai. Vabbè, per Carlo, Gianfranco ha il palo con l'antenna per terra, quindi nonostante tutto riesce a uscire fuori, dai. Carlo, non lo so, Carlo dovrebbe essere partita di Sassari, vero Carlo? Sì, Gianfranco, via Prunizzetta, proprio all'inizio, capito, all'inizio di via Prunizzetta, angolo via Savoia, capito, e via Fola, giù, proprio all'inizio, dove c'era il vecchio negozio di scarpa, praticamente attraverso inizia lì via Prunizzetta. Sì, ho capito Carlo. Vabbè, io entrambi in linea ottica praticamente, solo che da lì ad andare sull'antenna in orizzontale, tra l'altro è anche polarizzazione orizzontale adesso, perché essendo coricata c'è ancora di più perdita. Quando si dice che non dovrebbe funzionare, funziona. Quando speri che funzioni, non funziona. Come è giusto che sia, non so come si fa a diventare male. Vi ringrazio, anche se le stazionarie sono discretamente basse, sono dell'ordine del numero 223, ovviamente quando la metto su avrà 5 stazionarie, ma su questo me l'aspetto già. È una Game Master ridotta, la versione HV. Ok, grazie per i rapporti, passo in query perché mi stanno chiamando da un'altra parte. Per adesso buona serata a tutti, anche a chi ascolta. Ok Gianfranco, non ti preoccupare, grazie per i saluti, ci sentiamo alle prossime, capito? Alle prossimine, vai Gianni. Ehi, vabbè, salutoni anche da questa parte, e niente, anche io vabbè non mi trattengo perché devo fare altro, era giusto per vedere se c'è l'alternata in emissione, ma a quanto pare abbiamo appurato che non è il segnale perfetto, l'alimentazione idem, e niente, cosa volevo dire, adesso mi è passato in mente, vabbè, comunque, allora, alternata non c'è, la radio è pulita, i picchi sono super positivi e noi siamo più che positivi. Va bene Gianni, importante che vada tutto bene, se hai da fare non ti preoccupare, tanto anch'io sono qua al computer e mi stavo ordinando una batteria per un orologio Citizen di quelli Eco Drive che si ricaricano con diciamo la luce solare eccetera, però non tiene più la carica e sono delle batterie piccoline uguali alle altre, solo che hanno una sorta di aletta elettrosaldata, capito, e quindi la devi prendere precisa e purtroppo nei negozi non la trovi e la devi per forza ordinare e costa anche un botto, 30 euro 28 euro, l'ho trovata su AliExpress invece 8,90 originale Panasonic e quindi mi sa che adesso la ordino, solo che chissà quando arriva, capito, però aspetto, tanto orologi già ne ho altri, quello aspetterà. Va bene, buona serata Gianni, se hai da fare non ti preoccupare, io rimango in ascolto, poi entrerà qualcun altro, magari ci sentiamo più tardi, a te il mic. Eia, sì dai, anche io devo fare della roba, tra l'altro mi sono, piccola curiosità, mi sono autocostruito un piccolo mobiletto dove, per essere più ordinato, ci ho messo la radio, l'altopanalto esterno e il rosmetro, wattmetro della ZG, adesso è, cioè il suo bombiletto personalizzato, chiaramente verniciato in nero, perché aveva la bomboletta nera, e devo dire che nonostante tutto realizzato con materiale di riciclaggio, è uscito carino, dai, almeno è tutto ordinato e siamo a posto, dai, da, al limite boh, provo a fare un'entrata più tardi, però adesso devo scappare. Dai, buon ascolto e casomai ci sentiamo dopo, ok? Ciao Gianni, alle prossime. E via. Ui, Lillo, butta giù la pasta che è pronta. Ciccio, attento, Ciccio. Ciccio, butta giù la pasta che è pronta. Hola, c'è qualcuno su 10? Aspensione 10. Avanti, chi è? È Lucrezia. Aspetta un attimo già. Scatto giù appena esci daddo. Sono domenica per mezzogiorno. Aspetta un attimo, devo fare una cosettina e arrivo. E non lavora, già la stanchezza. Siamo a ti svegliare alle 3 già, e poi fai questo, fai quello e la stanchezza arriva. Arrivo. Via. C'è qualcuno? Eccoci, c'è qualcuno, non hai risposto. Buonasera. Buonasera anche a te, che c'è? Solo tu ci sei già? No, c'era Luca, mi ha detto di aspettare un attimo che stava arrivando. Io accendo ogni sera, li metto a scaldare gli apparecchi, poi se entra gente va bene, se no pazienza. Vabbè, subito si sta ripopolando. C'era anche Claudio ieri, Marco, poi c'erano quelli di coso, della zona di, come si chiama, di Soso, Marrizza, adesso non so esattamente. Sì. Ci stavo parlando anche io ieri sera con quello di Marrizza. San Pi che poi c'ha un altro nome, un giorno dopo ne aveva un altro, anzi il giorno prima era pirata, ne ho sentito due o tre di noi. Ripeto. Perché era la stessa persona, il giorno prima si chiamava Pirata, poi lo stesso giorno dopo si chiamava San P. Deve essere sta ancora decidendo, perché lui mi ha detto che entrava quando era ragazzo in frequenza, poi aveva mollato, c'era un po' di apparecchi, li aveva ripristinati. L'ho conosciuto in persona, ho preso una radio, ce l'aveva l'altro giorno, una radio VHF. Ah, buona. Come? Funziona bene. Sì, che funziona, una radio vecchia degli anni 80, dai, una ICOM, solo VHF, però è un vintage, è bellino, dai, per quello che l'ho pagato va più che bene, ha compreso di microfono e tutto. Ho sempre una radio di scorta, poi io non vendo niente, però se devi fare qualche scambio, magari insieme ad altre cose, può servire, dai, le radio ce le ho per quelle bande lì, però... È carina, dai, funziona a 220, non c'è neanche bisogno di mettere l'alimentatore, c'ha AM, FM, aspetta, c'ha non AM, FM, c'ha FM, USB, LSB e CW, non sono tutte le radio FM che c'hanno, 144 che c'hanno la SSB. Lui mi ha chiesto, mi ha detto, ma tu Roberto l'hai sentito, perché le voglio chiedere che frequenza va, che voglio andare anch'io, e te che tu non ci puoi andare con le frequenze. Vabbè, non è molto pratico, infatti gli ho detto anche io, se tu ti metti un ricevitore a 145.525 quasi tutte le sere c'è gente, dai, e poi se c'è possibilità di ascoltare i ripetitori, vabbè, i ripetitori c'è un'antenna un pochettino performante, se no non fai niente, Monterasu, con quello ascolti anche quelli di Cagliari, e Nuvolo e tutte quelle zone lì. E basta. Cosa volevo dire? Claudio non è entrato, l'ho sentito stasera, dice che forse entrava. Ma io ho acceso verso le 6:30, 7:20 e non c'era nessuno, sono acceso da quell'ora lì e non ho sentito nessuno, magari è entrato prima. E magari impegnato. E ho sentito poi Tino l'altro giorno, Gavino, Marco abbiamo detto Condor, Antonio Bombolo, che oggi è il suo compleanno, tra l'altro gli ho mandato gli auguri perché l'ho visto adesso, me ne sono accorto adesso, poi chi c'era di altre persone, che non ho più sentito, ma da tanto, vabbè, entro raramente, Giulio Dollaro. Ah, ma chi è il compleanno? Antonio? Antonio Bombolo, oggi ho visto che mi è arrivata la notifica. Ah, io invece non me ne sono accorto, aspetta. e canale 10 27075, se c'è qualcuno che ha piacere di entrare e partecipare alla discussione è ben accetto. Avanti, buonasera, ciao Roberto. E la ricca che in ascolto era il coso, cos'è, cioè il monitor, come si chiama, tutti, come si chiama, esatto, il spettro, cioè. Ecco, di quello ne ho tre, esatto, il spettro, e di uno scanner a ascensore rapido, e mi dici come mi senti, Roberto, poi ti dico una cosa. Ma dimmi una cosa, vuoi sapere come ti sento di segnale? Se 9-10, modulazione chiara, però è leggermente bassina. Dico ragione. Vabbè, impossibile. Non mi chiedi cosa sto usando. Non lo so, dimmelo tu, ne hai creato talmente tante di radio. Allora, mi sei guastata l'antenna, quindi l'ho riparata in questi giorni, eccetera, eccetera. Però c'è un piccolo e trascurabile dettaglio, che l'antenna è a terra, quindi non l'ho alzata, è in basso e non è neanche finita, quindi anche con lui aspettavo a lasciare stazionario, uno e due, uno e tre, sono con 5 watt, ed è una cosa allucinata, perché tra l'altro è vicino al traliccio che scherma pure l'antenna, cioè ma ti rendi conto, un'antenna buttata per terra che arriva comunque bene. Boh. Ciao anche a Gianni. Ciao, mi sentite anche a te. Io ti sento con questo rumorino sotto il fondo, però non so se sia dal mio apparecchio, tipo un QRM strano. Io mi aspettavo che neanche mi sentisse, perché ripeto, c'ho un'antenna per terra, letteralmente per terra, buttata a 30 metri dall'apparato che sto qua, quindi non mi aspettavo neanche di uscire, di essere uscito qualcuno. Ma questi scoppi cosa sono, Giafra? Il segnale è buono, però non è chiaro, vabbè. È disturbato. Il microfono. Aspetta, poi tieni presente che l'antenna è collegata a scotch, proprio realmente a scotch, perché la dovevo finire, la dovevo anche saldare. Ma l'antenna, Gianfra, è collegata in terra o è bassa come altezza? No, è a terra, c'è il traliccio, cioè il palo è rasente in terra. Vabbè, chiaro, sì. È un po' bassino, leggermente duro, ma te sento una ventola già, ma è così, l'alimentatore o che cos'è? L'alimentatore. No, la modulazione tua è bella forte, bella squillante, la sua è un po' più bassa, ma no, già lo sento, ma lo vedi, sta arrivando qua, non è forte la modulazione, cos'è, che radio stai usando, Gianfra? Qua c'è anche la radio. Mi sento questa esplosione. Questo è il President Lincoln 2+. Gianfra, ogni tanto sento tipo quando stanno sparando cacciatori. Ma cos'è, il microfono o l'antenna che sta dando scariche? Sembrano portati di fritte, te lo dico. No, questa la sta scendendo un'umidità che non te ne dico, quindi è pure bagnata. Allucinante, veramente. Cioè, se l'avessi voluto fare apposta una cosa del genere, non sarebbe riuscito. Come mai non sei uscito con la Game Master? Perché la Game Master aveva le stazionarie alte, io l'ho buttata a terra, l'ho aperta e purtroppo dopo tanti anni è entrata l'acqua, sicuramente, e dentro era tutta corrosa, soprattutto le parti infezionite, eccetera. Quindi l'ho dovuta fare letteralmente nuova, perché anche i cavi ovviamente sono stati corrosi. Qua l'umidità ne ho da vendere, ogni mattina c'è il gocciolattuio che sembra una fontana. Quindi l'ho fatta in modalità test, quindi non saldatele, come se sono appoggiati i cavi, eccetera, eccetera. E la stavo per tirare su un attimino per vedere se andava tutto bene. Non ho fatto in tempo, quindi l'antenna è rimasta a terra. Ho provato, dove le stazionarie sono accettabili, riesci a vedere se mi sento. E mi sento. Boh, tu ne capisci. Ma è ripristinata. Non ho capito, hai detto? Ho detto, l'ho ripristinata la Game Master, l'ho buttata via. No, no, non è un'antenna che si può buttare via, è un'antenna che si può rifare da capo, è fatta di cavo, quindi quello che costa la Game Master è sicuramente la struttura, è vetrofisica, non è il cavo, il cavo è RG58, è un pezzone. La progettazione che ti fanno pagare, perché anche la struttura è debole, è una struttura non affidabile secondo me, si vetrifica col caldo, col sole, si spezza, e vabbè, era una bella antenna perché andava bene, però qui a me mi si è troncata due volte, ma sicuramente col caldo e il calore si è vetrificata. Scusa Roberto, guarda, secondo me perché o la legano, perché anche nelle istruzioni ho visto di legarla, secondo me è sbagliato, la mia ha preso tempeste e tutto quanto, sole non ne parliamo, eppure sembra nuova, ma ha visto tempeste serie che fa per spezzare le antenne anche la 510, quindi per me è un'antenna eccellente. Per l'uso che si è visto a me. Non era legata, era solo attaccata a un palo, come fa a me. E la vetrofisica è in ottime condizioni. Avanti, Roberto. Oh, io sono sempre mantovista, così. Quelle antenne, c'è proprio l'antenna di 40 anni, 45 anni, quella che c'è già, l'hai vista quella che c'è vicino alle luci gialle? Quanti anni c'è quell'antenna? Ehi, è bella vita, è un po' di anni, cioè. Non so se sia funzionante ancora, so anche di chi era. No, io l'ho cambiata, ho messo la LEM, ho messo la Super LEM, come la Manto, ma però diversamente dalla Manto va già il piantone e tutto l'acciaio. Quindi quello che sia ruggiva, piva, dove c'è anche il PL, tutto l'acciaio quel pezzo. Allora, la Manto va via, non so se ti ricordi. L'ho montata a fine del 2004, diciamo, fine inizio 2005, avevo entrata un po' male e avevo tagliato il coso, il passaggio dove c'è il PL. Io l'ho smontata, ribobinata tutta quanta con il cavo nuovo, e ho tolto il PL che era fissato ridicolo, gli ho messo un Amphenol, da 2004, fine 2004, quanti anni siamo? Quanti ne abbiamo oggi? Nel 2025 c'ha 20 anni con l'antenna, non ho mai toccata da quando l'ho piazzata, non ho mai cambiato un cavo, niente, sempre, le stazionarie è sempre quella, è bella dritta, non ha mai dato nessun problema, grazie a Dio, cioè, vediamo che non li metta occhio e sta sempre andando. Io da quando mi conoscete ho sempre avuto la Mantova, da quando sono entrato in baracchino, mai toccato. Queste Game Master tutti ne parlano bene, però un sacco di gente ho sentito che si sono rotte, allagate, quello e quell'altro, e non costano poco, tra l'altro quanto costa una Game Master? Costerà 130-140 euro mi immagino, no? Sì, mi farò pagare la progettazione, perché poi di antenna non c'è nulla, è tutto un cavo che puoi fartela anche tu, Robby, se benissimo, non fai con la cala da pesca per la 60. Robby, 160 la 5 ottavi, 130 costa la versione a mezz'onda, che è alta 5 metri, la Game Master è alta 7, quella a 5 ottavi. E comunque secondo me queste cose sono nate perché avranno immesso nel mercato roba clonata, perché sono impossibile. La mia era originale, va bene, la stessa cosa delle Diamond, le metti guaste, insomma la Diamond è strano che faccia zozzerie, eppure sono capitate parecchie Diamond che andavano male. Come te lo spieghi? Quindi, sai, i baldini ci sono sempre, prima di stare all'estero. La mia c'aveva anche il marchio Game Master attaccato, c'era scritto Game Master, no, no, la mia è l'originale, c'era il cartone Game Master, la scritta, c'era le istruzioni, come montarla, eccetera, eccetera, e c'era scritto Game Master, no, no, era l'originale la mia, l'ho presa originale, sicuramente la posizione dov'era che prende un bel vento, lo sai come si piegava la mia, ti mettevi le mani in testa se vedevi, se mi hanno suonato il campanello dal palazzo, guardi che gli si sta piegando l'antenna, questo no, ho detto con l'antenna lì è fatta per piegarsi così, ah così, non pensavo che si fosse troncato. E infatti si è troncato. No, anche da me c'è molto vento, quando batte il maestrale i tubi d'alluminio devi vedere come si piegano. Figurati, per darti un'idea, siccome prima avevo i tubi d'almine, con attaccati gli altri tubi in lama, quelli in ferro con i classici dadi si sono piegati e non è successo niente. Il dalmine, il tubo dalmine, me l'hanno piegato e non è ritornato in piedi, perché una volta che piega ce lo devi o tagli o ce lo porti via. Stiamo parlando di un tubo molto molto pesante, che tra l'altro c'era la cosa lì, la mantova 1, quindi adesso ne sto anche approfittando per cambiare tutto, perché quando devi fare le cose tutto da solo, ci vuole forza, ci vuole a sollevare pali eccetera, e quando inizi a parlare di antenne alte con tubi di 12 metri, insomma inizia a essere pesantuccio, quindi occorre larga, non occorre quello, quindi sto facendo come per quello del salicio alto, le sto facendo a bilanciere così posso operare da solo e senza neanche salire sul salicio. Bisogna trovare la soluzione per fare meno fatica, certo, o se no ti puoi aiutare da qualcuno, basta chiedere e ti danno una mano, non c'è problema. No, sul mio salicio non ci posso avere nessuno perché è troppo pericoloso, non voglio, bisogna conoscere bene quello che si sta facendo, uno che non lo conosce mette il piede in fallo e non c'è una seconda volta, perché sotto c'è il calcestruzzo, la gettata, se cade da lì prima sbatte su tutte le crociere del salicio perché è un punteggio alto. E dopodiché arriva al cemento e l'opera è già finita un po', perché uno si sbracella tranquillamente. A te Roberto. Ti metti un materasso sotto se cade già in rimbalza. No, io ho la mantova, ripeto, tanti anni, sono soddisfattissimo, una tenda semplice, però forse la mia era una di quelle buone, perché poi le mantova le hanno fatte versioni successive ed erano, si dice, un pochettino d'alluminio un po' più economico, infatti qualcuno ho visto si è anche rotta. E poi c'ho la mantova turbo che era passata pochissimo tempo Salvatore Maestrale, forse Claudio Gianni te lo ricordi, nuova, cioè anche radialini di scorta, l'aveva montata e poi non l'aveva tolta, forse qualche mese l'aveva tenuta, ce l'ho di scorta, appena la mantova uno da qualche problemino, eventualmente, solo sarà un bel problema buttarne giù quel coso, quel palo, è un palo telescopico grosso, fatto con tubi d'acqua a misura e a scalare, l'avevo fatto io in officina, poi gli ho saldati i buloni da 10, 17 di testa, è stato un problema, però tutto fatto a regola d'arte, avevo fatto quei ritiranti, e il palo mio, se lo guardate, è bello che è dritto. La canna da pesca, quell'altra, quello che sono 10 metri, forse anche per 12 metri era, quando c'è il vento si piega a 45 gradi, proprio una cosa, sembra che si spezzi da un momento all'altro, infatti l'ultimo stilo, quello in punta, ne è uscito fuori. Adesso quando c'ho tempo, sono già dall'anno scorso che lo devo fare e devo abbassarla e accorciare la lunghezza del coso e avvolgerlo diversamente il filo e l'affilare, così almeno là. Però probabilmente è previsto che non la tiro giù via con l'antenna, la lì me lo metto una cornuta, però solo bibanda. Poi c'ho quella tendino che è una grande antenna, lì ce ne sono scelti due elementi, alla fine ho scoperto che erano le cornacchie che si mangiavano i fili, appena messo ho detto torrente, non è possibile questo cavo che si è marcito in un mese, e poi alla fine ho visto la cornacchia meccando sopra e me ne ha tagliato il coso, i tirantini, e me ne ha buttato i bracci, due bracci di quella antenna con web, con la tendina. Riprendi chi tocca, Gianni a te, poi a Gianfranco. Ma le cornacchie sono micidiali, a me mi hanno buttato tutti i radiali, li ho rimessi in umile, la mantova 5, li ho comprati da Brico, li ho rifatti a misura, li ho rimessi in umile, li ho messo anche i tappini finali, tutto quanto, fatti bene, siliconati, eccetera. E dopo un po' me ne hanno buttati di nuovo giù, allora mi sono scocciato e ho tolto la mandola e avevo comprato la Game Master, ma non ho fatto un grosso affare, a me non mi ha soddisfatto come antenna, sinceramente. Come antenna andava bene perché arrivavi bene da tutte le parti, ma poi la durata proprio non mi ha soddisfatto per niente, il materiale non serve. Io ho guardato diversi furi, sai quanta gente ha scritto che gli si è troncata, anche a quello di Porto Autore, se ti ricordi, gli si era troncata lo stesso. Ma come si chiama l'altra antenna, quella che ce l'aveva per un periodo, Claudio e anche Carlo, quella, come si chiama, che è una 7 ottavi, è ancora più grande della Mantova, come si chiama? Grazioli forse. Era Grazioli, però il modello come si chiama? Boh, non me lo ricordo, so che è carissima, è il doppio, più del doppio della rimasta. La Smarttech si chiama, che c'ha un dipolino davanti, un radiatore gli hanno messo davanti, è una grande antenna quella, bisogna vederla nel tempo come reagisce alle agenti atmosferici, però ti dà delle belle prestazioni, ho visto delle prove comparative con due antenne, leggermente meglio della Mantova, vabbè, bisogna vederla poi in certe situazioni, magari a lunga distanza va meglio una e l'altra va a media distanza, però è un'antenna a 7 ottavi, più grande della Mantova, che è una 5 ottavi. Sì, ma pare, stavo leggendo che 7 ottavi per le antenne non siano molto quotati, perché bisogna considerare sempre il rapporto guadagni e strutture, eccetera, eccetera, quindi giocano un po' della candela magari. Comunque lo standard è 5 ottavi e mezz'onda, che è molto più sicuro anche come struttura antenna. La Mantova 1, perlomeno quella che avevo io, che l'ho fatto togliere perché era proprio una cosa vecchia, ma altro che vent'anni c'aveva. Proprio poco fa, siccome ho lasciato dei fissi, mi servivano per un alluminio. L'alluminio è tanto. Cosa vuol dire questo? Che all'epoca le cose le facevano bene, i PL duravano il quadruplo di quello di adesso, adesso ci metti i PL, li metti, li avvisti, prende umidità, si incrocia tutto e ci ributti. Non c'è più la qualità di una volta. E te le fanno pure pagare cari, tra l'altro, una roba che è una schifezza. A terra, aspettava, Roberto, non lo so. Sì, l'alluminio è infatti così, prima utilizzavano dei prodotti, adesso è roba riciclata, rigenerata, fondono le cose, è come il metallo dalle macchine, il ferro, cioè le bottiglie, il vetro di riciclato, eccetera, eccetera, una cosa essere di primo impianto, diciamo, di prima produzione, come tutto, ma io me ne accorgo anche dalle macchine, le plastiche delle macchine, le mollette in plastica, le guarnizioni, prima era tutta un'altra cosa, tu vedi, io ho visto macchine di 30-40 anni, ancora belle integre, guarnizioni, cioè le guarnizioni di adesso, le modanature, dopo qualche anno le vedi sono tutte staccate, poi utilizzi i prodotti per dire di lavaggio e te le mangiano completamente, sono tutto in economia, tutto materiale di scarto, riciclato, copertoni sciolti insieme ai paraurti e fanno un materiale plastico e mischiano tutto, come il rame, adesso negli impianti elettrici della macchina, infatti abbiamo un sacco di anomalie e le portano per sistemarle, sono delle leghe, ci mettono un po' di alluminio, un po' di rame, una cosa del genere, tendono a irrigidirsi, non hanno la conducibilità del rame, per cui scaldano anche un pochettino, ne vedi di portalampada, di spinotti di portalampada, di macchine sciolte, proprio sciolte dal calore, perché c'è molta resistenza e si vetrificano e si crepano, poi non parliamo i portelloni di dietro dove passano il cablaggio dei fili, aprendo e chiudendo, che si diventano duri questi materiali qua e si spacca, e uno basta un filetto e ti vanno l'impianto. Oh yeah, non c'è più nulla di qualità adesso, tutte leghe Sì, è tutta roba di scarto, assolutamente, no? Le macchine in proporzione costano molto, ma molto di più di quel dire di 30-40 anni fa, se ti fai un rapporto tra lo stipendio di 40 anni fa e il costo di una macchina e lo stipendio di adesso e il costo di una macchina, c'è un abisso, una cosa spaventosa. Tempi sono cambiati, peggio, ma sono cambiati, purtroppo è così. a me mi ricordo che nell'Asta Station Rego d'estate sono andato a aprire lo sportello e non aprivo il tirato, perché è rimasta la guarnizione, si era sciolta e si era attaccata all'altra parte. Ti rimane? Non lo so, ma io ho visto, mi hanno portato tempo fa, prima di aprire un Mercedes, del sistemarlo, un parafango, una cosa del genere, e l'abbiamo fatto la fiancata, ne ho tolto tutto le modanature, ce l'aveva in metallo, in acciaio inox, non si è rotta una molletta, vai a farlo adesso, ti sfido a trovare una macchina di qualunque livello che togli le mollette integre, non esiste, perché c'hanno le modanature, la schiava vetro, si deforma tutto, questo era uno spettacolo, così i vecchi BMW anni 80, tu li smonti, è tutto integro. La mocchetta era alta 4 cm per un pelo, bella l'imbottitura, guarda le mocchette di adesso, uno frattino di saracca, di blu, non lo so, non c'è niente, ci passi i piedi sopra, dopo un anno e si fa il buco nella mocchetta. Dino Battesia Fra. Sì, ma per le macchine ha fatto scuola la Fiat da quando era uscito il famoso 127. Che aprivi il portellone di dietro e ti facevi il segno della croce, dopo un paio di mesi era già corroso, ma non era la corrosione che siamo abituati a vedere, proprio la corrosione che sotto non c'era più niente, premevi col dito e sfondavi la lamiera, ma cosa lo c'era? E questa è la Fiat che infatti si diceva che fosse fatto quasi apposta questa cosa, mentre invece ho visto un Alfa, ma non per il mercato italiano, per il mercato tedesco, la nostra Daniela. Praticamente non era una macchina, era un quadro armato, proprio lamiera vera, non la lamiera di Latina, robusta, era una la Giulia, quella che trovava anche i carabinieri. Quando c'erano quegli antennoni, non so, se lo ricordi, sui 30 MHz. Sì, sì, vabbè, c'è da dire che la Fiat faceva produzioni maggiori rispetto alla Faromea, ancora di più la Lancia, erano curate le macchine, c'avevano un lavoro di coso, di protezione per la corrosione, perché prima non erano zincate le lamiere, perché non è che non riuscivano a fare le zincature, il problema è che non c'erano delle vernici che ti davano delle garanzie di adesione, poi piano piano dagli anni 90 in poi tutte le macchine sono zincate, ma io ti faccio vedere le Dacia, le nuove Dacia, che stiamo parlando macchine del 2015, marci, montanti dalle cerniere, me ne ha portato più di una completamente marci, infatti io sono rimasto a bocca aperta, ero decenni che non vedevo una macchina marcia, la Fiat è uguale alle altre, comunque le uniche macchine che avevano una resistenza superiore alla corrosione erano le Volvo, perché non c'erano trattamento antirruggine, e le Volkswagen, avevano il famoso Dinitro, che all'epoca sono stati noi i primi a averlo qua, in città i primi, in Sardegna tra i primissimi, era un prodotto che rimaneva tipo ceroso, si mettevano gli scatolati, infatti non so se le vedevate, qualche golfo d'estate colavano questa specie di cera scura marroncina tipo olio bruciato, e le Volvo erano all'avanguardia come resistenza alla corrosione, soprattutto per i climi freddi dove buttano il sale in terra, avevano una protezione antisasso sotto nei passaruota eccellente, e poi anche la Volkswagen devo dire, mentre se non parliamo di macchine francesi, le macchine italiane tutte erano da 8 decimi le lamiere, le macchine francesi erano da 6 decimi, non so se vi ricordate voi l'R4, la Diane, la 2 cavalli, lame erano completamente marce, erano di 2 decimi inferiori come spessori, poi erano ammasso di ruggine, inutile criticare la Fiat è una delle tante, poi piano piano quei tempi sono migliorati, hanno iniziato con la Tipo a renderle zincate le lamiere, infatti non ci sono stati più problemi, a parte qualcuna tipo appunto seconda serie che erano tutte zincate, non si sa per quale motivo, le capote erano l'unica parte che non c'era la zincatura, ogni tanto ne vedi qualcuna col buco nella capotta. Chi tocca avanti dei Gianni? Vabbè, comunque io sono del parere che anche queste vernici ad acqua adesso non servono molto. Io vedo molte macchine con trasparente, macchine nuove con trasparente che riesce fuori, che si squaglia tutto. Ma vabbè, già quello è un altro discorso. Ti spiego il problema, senza parlare male della lavagetti. Tu una volta portavi a male la macchina, te la lavavano con la spugna e col secchio a mano, qualcuno metteva un po' di shampoo per togliere. Adesso prendono la schiuma, che è a base di Kiriav, ad alte concentrazioni, perché il Kiriav si usa per pulire i cerchioni dalla polvere dei pattini, delle pastiglie, quella nera che poi col tempo si calcifica, non esce più. Usano lo stesso prodotto, fanno veloce, gli danno una schiuma e poi ad alta pressione ne tolgono tutto, però col tempo ti rovini trasparente, perché è una cosa molto a base di soda, ci sono sostanze altamente aggressive. Basta vedere i fari delle macchine, che da qualche anno, da una quindicina d'anni, sono tutte in coso, in policarbonato, tu le vedi tutti ingialliti, fanno la lavagita, basta andare una volta. Poi non parliamo le vetture scure, che d'estate arrivano a 80 gradi, ci cuoci l'uovo sopra, nella cappotta, nel cofano. Queste sono le parti più cose. Allora dice sì, ma noi la laviamo, la soffiamo, però rimane, come quando ti fai la doccia, ti rimane un po' di shampoo nella pelle, ti gratti, e tu fai conto che questo prodotto te ne rimane un po' sopra la carrozzeria, col tempo la bruci, trasparente, vernice all'acqua, a livello di resistenza di per sé non puoi dare la vernice all'acqua se non dal trasparente sopra, perché non resisterebbe. Diciamo le vernici più o meno rispetto a prima, non dico che ci sono grossissime differenze. All'inizio i problemi erano sui colori rossi, perché i pigmenti erano fatti con degli, facevano sperimentazioni e diventavano rosa col tempo, da rosso corsa, rosso alfa diventava rosa, vedevi certe macchine. Poi piano piano hanno iniziato a migliorare i pigmenti, adesso anche i rossi tengono un pochettino di più, però all'inizio era una cosa così. Però non è che siano molto peggio delle cose, le vernici che erano buone, le vecchie vernici a lucido duretto, parliamo degli anni 70, ma sono altamente inquinanti, per cui sarebbe inconcepibile utilizzarle adesso per legge devi utilizzare prodotti ecologici. Di nuovo a te Gianfra. Sì, purtroppo è così, quindi bisogna sempre arrangiarsi un po' con tutto, con le macchine, con le cose. Certo, comprare una macchina nuova non so quanto sono franca adesso, considerato sia la qualità che sia il costo, perché oramai questi macchinoni non sai più dove metterli, e proprio non c'è necessità di fare determinati lavori, è cosa facile. Io la mia ad esempio l'ho presa solo perché ci doveva entrare dentro la bici, se non ne avrei preso un'utilitaria come quella bianca e ci avevo, che l'ho dovuta vendere pure. Ma per città è l'ideale la macchina piccola, i macchinoni ormai, lui, per carità, non c'è più posto a certe ore, non so più un posticcio, è una cosa micidiale, è fantastico, tutto lì. Gianni, ti volevo dire da prima che c'hai un rumore di alternanza, ma sicuramente sarà qualche alimentatore che c'è vicino. Sì, c'è un alimentatore acceso, perché c'è acceso i tre apparecchi, capito? Mi sto facendo scaldare per quello, aspetta. Sembra che ci sia la lavatrice che sta facendo la centrifuga, con la ventola si sente tantissimo, poi è molto amplificato il microfono. Guarda adesso. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non parlare, guarda, sono portante già. No, invece c'è. Aspetta. E adesso? Io continuo a sentirlo, tu? Vabbè. Meno di prima, però si sente, non so se sia, dipende dall'alimentatore o qualcosa, si sente un ronzio di sottofondo, non è fortissimo, però si sente. E l'alimentatore del gas, sì, è quello lì, normale, c'è il suriano, adesso c'è l'alimentatore attaccato, si sente di più. Perché è amplificato, questo microfono l'ho fatto io, Roberto, l'ho modificato. Ma è dinamico o a elettrico? Che cosa? Il microfono? Sì. No, è amplificato. Ecco, ho capito, è amplificato, ma la capsula cos'è? Una capsula condensatore oppure una capsula magnetica di quella bobina, diciamo, dinamica? È una capsula che si monta, come si dice, nei citofoni. Beh, nei citofoni che conosco io sono tutte elettriche, quindi a condensatore. Sono già di per sé molto complicato, senza bisogno di circuito. Mentre tu, Gianfranco, ogni tanto si sente un pacco di patatine aprire, patatine quelle paie. Sì, è probabile, magari sta cucciolando su qualche contatto, su qualcosa, aspetta che a terra, infatti, boh, io non ci credo ancora che è possibile che abbia così poche distrazioni, magari metà, più della metà della potenza se ne sta andando in terra, ci saranno lumaconi con le antenne tutte bruciate. Quanto ti arriva Gianni Gianfranco? Cioè Gianni Gianfranco quanto ti sta arrivando? Ho capito, se Gianfranco guarda quando ti sta arrivando. No, non ho capito, hai detto se mi sta arrivando? Quanto ti sto arrivando io, vuol sapere Roberto. No, al contrario, tu quanto lo ascolti a Gianfranco? Prova Gianfranco. Allora, io ti sto ascoltando 8, ma ripeto, l'antenna è anche schermata perché davanti c'è tutta una struttura metallica, quindi ti puoi immaginare, è un miracolo che senta qualcosa. Sentivo anche gli stranieri stasera. Oh, ben dici, arrivi qua. È lo stesso segnale mio, 9:10. E io quanto ti arrivo? Vabbè, siamo radio diverse. Io quanto sto arrivando da te, Gianfranco? È modulato 9:10, tranquillamente. Sei in ottica. Cosa ci scommettiamo? Che domani se la tiro su, dopo che l'ho pure saldata, perché ovviamente la devo saldare, mettere termoplastico e tutte quelle lì, quando ho finito l'antenna e la porto su, sicuramente non si sente un tubo, ci avrà 7 di stazionarie, guarda, ci puoi giurare. E vulcanizza, va bene, così non entra più di acqua. Ma la vulcanizzo, magari l'acqua entra lo stesso, e se non entra acqua comunque l'antenna non funzionerà. E allora poi prendi lo spray per le stazionarie, gli dai una passata di spray per le stazionarie. Non lo so adesso chi lo vende quello, te lo ricordi? Si buttava la polverina anche, quelle cose lì. Insomma, c'erano tante soluzioni all'epoca. Ma pigliamo i fondi dei ragazzini che entravano da poco. Una roba da c'è la GBC una volta. E chi dice bruciare il... Ma la gente, qualcuno è convinto che esista veramente, perché ho visto delle su internet delle cose, spray per il coso, CRC per le stazionarie, garantito, l'SVR, non so quanto te lo porto. Magari qualcuno sta facendo qualche battuta, non è possibile che ci siano gente. Lo facevano i ragazzi il periodo di Natale, quando entravano quelli nuovi che gli regalavano gli apparecchi, i primi ragazzini a Natale, entravano e gli dicevano devi metterti quello spray che ti fa uscire più forte e ti elimina le stazionarie, e non me lo vedo, la GBC, andò con la GBC a comprarlo. Beh, almeno quelle lì erano cose innocenti, no? Era cosiddetto scherzo da parete, ma guardando YouTube ci sono veramente delle cose che dovrebbero togliere, li dovrebbero bannare certi utenti, cioè dire, che ne so, ti faccio un esempio, uno di tanti, connettere alla corrente per ricevere meglio la televisione sul cavo dell'antenna, oppure non pagare Sky mettendo, cortocircuitando questo, cortocircuitando, cioè, ma sono follie veramente anche pericolose, veramente c'è gente fortemente malata di testa. Poi cosa c'era, cosa ho letto? Se vuoi ascoltare tutte le frequenze di polizia, carabinieri. Oh Gianni, una telefonata, dillo a Gianfranco, tra qualche minuto riprende. Più di faccio dite, ma se rendono conto che il telefono potrebbe anche esplodere. No, non ci credo. Cioè sono cose assurde veramente. Roberto è un attimino al telefono, dai, hai toccato entrare subito. Sì, ma a me lo scherzo più brutto che mi hanno fatto quando ero ragazzino, là, che stavo appena cominciando a usare l'apparecchio, già l'avevo anche in macchina, e praticamente ha chiamato questo qua, ha detto ho avuto un brutto incidente, sono capottato con la macchina, non riesco a uscire fuori. Allora non c'erano i telefonini, perlomeno, poca gente li usava. Mi sto chiedendo aiuto, sono qua a Platamona, e praticamente mi ha detto detto il posto dove era, sono passato a chiamare un amico di notte, questo qua, siamo arrivati giù e non c'era nessuno. Ecco, anche quelle lì, ma è una cosa grave, vedi? Il gergo tecnico, se avresti chiamato le forze dell'ordine, la cosa sarebbe stata procurata all'arma, che non è una cosa da poco, perché metti il caso che tu prendevi la macchina, scendevi a dare aiuto e avevi qualche incidente. Cioè, la gente non pensa a niente veramente, ma basta vedere tutto quello che succede adesso, sono scherzi da idiota. Un'altra volta questa imbarcazione, che era una finta imbarcazione, che parlava nel francese, ha chiesto aiuto, ecco che si trovava tra la Corsica e la Sardegna, e in mezzo al mare, non so quante miglia, se potevamo chiamare la capitaneria, che loro avevano la radio che non funzionava. E che avevamo chiamato la capitaneria e poi mi hanno richiamato, mi dice le coordinate giuste che stiamo mandando l'imbarcazione, cioè a livelli del genere, capito? E poi dice non riusciamo a metterci in contatto, abbiamo provato con questa imbarcazione, non riusciamo a metterci in contatto, ma è sicuro che era 27, perché solitamente usano VHF vanino eccetera eccetera. E io ho detto no, ma questi qua che ce l'hanno tutti e due, però che quello VHF vanino non funzionava e stavano usando la 27, capito? Scherzi di merda sono, scherzi proprio di cattivo uso che ti possono far passare casino. Infatti, ma tu pensa che adesso quando fanno se qualche pazzo, se sono pazzi, facessero una cosa del genere, immediatamente dovrebbe decollare anche l'Alghero l'elicottero, che significa parecchie migliaia di euro di volo in termini solo di carburante, poi c'è anche il personale da pagare, e con tutti i rischi connessi a nessi. Io a volte li sento quando fanno queste operazioni, le stazioni, eccetera, e si mobilita tantissima gente, non è roba, e figurati che una volta che l'ho ascoltato c'è una difficoltà di comunicazione anche in VHF, un po' si sentivano, un po' non si sentivano, perché evidentemente c'erano dei problemi, perché quando succede qualcosa sempre Murphy è in agguato e le cose iniziano a non funzionare. Sembra una cosa detta così, però succede, ti serve la radio, non funziona il telefono, è fuori campo, è per quello che le navi di radio, quelle grandi, ne hanno 3 HF, almeno altre 3 in VHF, per quello che hanno anche tutte le antenne doppie, e il motivo è quello. Certo. Ma se tu mobiliti tutte queste forze armate, praticamente ti possono denunciare, lo sai, che praticamente è una cosa incauta che stai facendo, c'è poco da fare, non puoi fare certe cose, perché è un falso allarme. Io infatti, a parte questo, il tipico apparecchio CPE fa 10 metri con 10 più, ma tutti gli altri HF, VHF, VHF hanno tutti il registratore incorporato, quindi in ogni caso io potrei dire guardi, ho sentito questa comunicazione, la mando alla registrazione, vedete voi, però non vi posso garantire che non sia un pazzo, ecco. Quindi c'è un motivo in più di tranquillità. Ah beh, quello sì, ti pare un po' il cosiddetto Queros. Io devo andare, Gianfra, mi dispiace, ma devo portare giù il cane che mi sta chiamando. Aspetta Roberto se rientra, perché ha detto che era al telefono, e io devo andare per forza adesso, dai. ci sentiamo, mi ha fatto piacere, infatti vi sentite ogni tanto che ci fa piacere, dai. Ciao, saluto a me Roberto quando rientra e saluto anche a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ok Gianni, ma dimmi, si può chiedere una cosa, poi la slampa come vai? Hai risolto per quel problema, capì? Quando ci siamo sentiti qualche anno fa? No, non ho capito Gianfranco. Come ti sta andando il piede, quel che avevi, mi avevi detto l'ultima volta che avevi incocciato proprio portando il cane e una bottiglia, ti hai fatto molto male. Risolto tutti quei problemi. Sì, già è guarito, meno male, dopo 5 anni. 5 anni sono stato con l'ulcera al piede, dai. E poi un'amica, che Dio la benedica, mi ha dato questo oro coronale e me l'ha fatto guarire in un mesetto, si stava già chiudendo. Va bene, meno male. Meno male, meglio così. Immagino che adesso sarà in pensione e quindi anche quello vuol dire molto, la tranquillità nell'essere stare sereni. Ok Gianni, grazie per il QSO e a più tardi. Allora, non più tardi non ci sono perché poi mi guardo il televisore, sto un po' in internet eccetera e quindi ho detto domani, a domani dai. Ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, buona serata, alle prossime. Roby, ci sei? Se no ti saluto. Tipico, quando fa il telefono, veramente. Mi stai ascoltando, ti saluto Roberto, ciao.